terzo anello, ad alta voce, la montagna incantata di Thomas Mann. Per dirla schietta, il nostro viaggiatore era dunque pazzamente innamorato di Claudia Chauchat. Del resto il suo innamoramento gli inflisse tutti i dolori e gli largì tutte le gioie che questo stato comporta dappertutto e in tutte le circostanze. Il dolore è assiduo, insistente, contiene un elemento disonorante come ogni dolore e rappresenta una tale scossa del sistema nervoso che toglie il fiato e a un uomo adulto può spremere lacrime amare. Per giudicare rettamente anche le gioie, diremo che erano numerose e benché derivanti da umili occasioni, non meno insistenti delle sofferenze. Quasi ogni momento della giornata al Berghof era tale da produrle. Per esempio, mentre sta per entrare nella sala da pranzo, Castorp si accorge che l'oggetto dei suoi sogni è dietro di lui. La conseguenza è subito ovvia e della massima semplicità, ma dentro è deliziosa fino a spremere il pianto. I loro occhi si incontrano da vicino, i suoi e quelli grigio-verdi di lei, il cui taglio e la cui posizione leggermente asiatica lo incantano fino al midollo. Egli è incosciente, ma anche senza coscienza si trae in disparte per lasciarla passare. Con un mezzo sorriso e un sommesso merci, lei accetta l'offerta, nient'altro che cortese. Passa ed entra. Nell'aria mossa dal passaggio di lei, egli si sofferma, folle di felicità per l'incontro, e perché una parola pronunciata da lei, quel merci, era diretta a lui personalmente. Egli la segue, barcolla a destra verso la sua tavola, e mentre si siede può osservare che Claudia, accomodandosi anche lei, si volta a guardarlo, come se, gli pare, ripensasse a quell'incontro sulla soglia. Oh, inverosimile avventura, oh giubilo, trionfo, illimitata esultanza. Un'altra volta, a cena, i raggi del sole prossimi al tramonto cadono sulla tavola dei russi a modo. Sulle porte e sulle finestre della veranda sono state tirate le tende, ma in qualche punto è rimasto uno spiraglio dal quale la luce rossa entra fredda ma abbagliante e colpisce proprio la testa della Chauchat, che mentre discorre col concavo compatriota alla sua destra è costretta a farsi schermo con una mano. È una molestia, ma non grave. Nessuno vi bada. La stessa colpita non si rende forse neanche conto di quel disturbo. Ma Castorp, attraverso la sala, se ne accorge e per un po' anche lui sta a guardare. Esamina la situazione, osserva il percorso del raggio, stabilisce il punto dal quale entra. È la finestra ad arco laggiù in fondo. Nell'angolo farà una porta della veranda e la tavola dei russi incolti, lontano dal posto della signora Chauchat e quasi altrettanto lontano da lui. Presa la decisione, senza dire una parola, si alza, attraversa di sbieco fra una tavola e l'altra tutta la sala col tovagliolo in mano, sovrappone esattamente le tende color crema, si assicura con un'occhiata al di sopra della spalla che il raggio è intercettato e la Chauchat liberata, e fingendo molta indifferenza torna indietro. Un giovane attento che fa quanto occorre, poiché a nessun altro viene l'idea di farlo. Pochissimi hanno notato il suo intervento, ma la Chauchat ha avvertito subito il sollievo e si è voltata a guardare e rimane in quell'atteggiamento finché Castorp è ritornato al suo posto e sedendosi guarda verso di lei, che lo ringrazia con un sorriso di cortese stupore, cioè sporge il capo più di quanto non lo chini. Egli risponde con un inchino. Il suo cuore era immobile, pareva che non battesse affatto. Solo più tardi, quando tutto era passato, si mise a martellare e soltanto allora Castorp notò che Joachim teneva gli occhi bassi sul piatto e soltanto in seguito si accorse che la Storr aveva dato una gomitata al dottor Blumenkohl e, reprimendo le risa, cercava, sia alla propria tavola sia alle altre, complici occhiate. Lei soffre, ingegnere, disse Settembrini. Soffre come un uomo smarrito. Come si fa a non accorgersi? Ma anche il suo contegno verso la sofferenza dovrebbe essere un contegno europeo. Si diceva della mia corrispondenza. Qui, vede, o meglio ancora, venga. Qui non è possibile. Ritiriamoci. Possiamo entrare laggiù. Le rivelerò cose che... Venga! E voltandosi, si tirò dietro Castorp dal vestibolo nella prima stanza di ritrovo, la più vicina al portone, che era arredata a sala di lettura e scrittura, e in quel momento era deserta. Queste carte recano in francese l'intestazione Lega Internazionale per l'Organizzazione del Progresso. Mi arrivano da Lugano, dove c'è una filiale della Lega. Lei vuol saperne i principi, gli scopi? Glielo dico in due parole. La Lega per l'Organizzazione del Progresso trae dalla dottrina dell'evoluzione di Darwin il concetto filosofico che la più intima vocazione dell'uomo è il perfezionamento di se stesso. Ne deduce, inoltre, che chiunque voglia soddisfare la sua naturale vocazione ha il dovere di collaborare attivamente al progresso umano. Molti hanno accolto l'appello. Il numero dei soci in Francia, Italia, Spagna, Turchia e persino in Germania è rilevante. Anch'io ho l'onore di figurare nei registri della Lega. La Lega cura inoltre la fondazione di università popolari, il superamento delle lotte di classe mediante tutti gli adeguati miglioramenti sociali, infine l'eliminazione delle lotte fra i popoli, della guerra, attraverso lo sviluppo del diritto internazionale. Come vede, gli sforzi della Lega sono generosi e vasti. Mi segue, ingegnere? Perfettamente, rispose Castorp con energia ed eccessiva fretta. A queste parole provò l'impressione di chi scivola, ma riesce a tenersi felicemente il ritto. Settembrini parve soddisfatto. Suppongo che le si aprano vedute nuove, sorprendenti. Sì, devo confessare. È la prima volta che sento parlare di questi sforzi. Ne avesse, esclamò Settembrini a bassa voce, ne avesse sentito parlare prima. Ma forse non è troppo tardi. Ebbene, questi stampati, lei vorrebbe sapere di che cosa trattano. Ascolti. In primavera era stata convocata una solenne assemblea generale della Lega a Barcellona. Lei sa che quella particolare città tiene il vanto di particolari relazioni con l'idea politica progressista. Il congresso durò una settimana tra banchetti e festeggiamenti. Io ci volevo andare. Dio buono, avevo un grande desiderio di partecipare alle discussioni. Ma quel manigoldo di Behrens me lo vietò con minacce di morte. E che vuole? Io ebbi paura della morte e non partii. Come puoi immaginare, ero disperato del tiro birbone che mi giocava la mia precaria salute. La Lega, dunque, ha deliberato a Barcellona di compilare un'opera in vari volumi che sarà intitolata «Sociologia delle sofferenze», in cui le sofferenze umane saranno studiate in tutte le loro classi e specie entro un sistema preciso ed esauriente. Essa elencherà e descriverà dunque in circa 20 volumi, formato enciclopedia, tutti i casi della sofferenza umana che si possono immaginare, dai più intimi e personali ai grandi scontri fra gruppi, alle sofferenze che derivano da ostilità di classi e conflitti internazionali. Indicherà, per farla breve, gli elementi chimici dalle cui molteplici miscele e combinazioni hanno origine tutte le sofferenze umane, e prendendo per norma la dignità e la felicità dell'uomo, gli fornirà in ogni caso i mezzi e le misure che le sembrano indicati ad allontanare le cause del dolore. Leggo nei suoi occhi una domanda. Lei vuol sapere quale parte sarà riservata a me. Mi lasci finire. La grande opera non intende di trascurare la bellezza spirituale in quanto ha per oggetto la sofferenza umana. Perciò è previsto un volume che a conforto e istruzione dei sofferenti conterrà una raccolta e una breve analisi di tutti i capolavori della letteratura universale che riguardano ogni singolo conflitto. E questo è il compito che con la lettera qui presente si è voluto affidare al suo umilissimo servitore. Ma che sento, signor Settembrini? Permetta che le porga le mie felicitazioni vivissime. È un incarico grandioso, sembra fatto apposta per lei. Non mi meraviglio affatto che a lei abbia pensato la Lega. Mi figuro la sua gioia di poter essere d'aiuto a eliminare le sofferenze umane. È un lavoro lungo, replicò Settembrini sopra pensiero, che richiede molta prudenza e molte letture. Tanto più che, aggiunse mentre il suo sguardo sembrava perduto nelle complicazioni della sua impresa, tanto più che i cultori dello spirito hanno trattato quasi regolarmente l'argomento della sofferenza, e persino i capolavori di secondo e terzo ordine se ne occupano in qualche modo. Poco importa, o tanto meglio, per quanto vasto sia questo compito, è certamente tale che alla peggio mi sarà possibile svolgerlo anche in questa maledetta sede, benché non voglia prevedere di essere costretto a terminarlo qui. Non si può dire la stessa cosa, continuò accostandosi di nuovo a Castorp e abbassando la voce fino a un bisbiglio, non si può dirlo dei compiti che la natura ha imposto a lei, ingegnere. Qui volevo arrivare, questo le volevo rammentare. Lei sa quanto ammiro la sua professione, ma siccome è una professione pratica, non spirituale, lei, a differenza di me, non la può svolgere se non laggiù, nel mondo. Soltanto nel basso piano lei può essere europeo, combattere attivamente la sofferenza alla sua maniera, favorire il progresso, utilizzare il tempo. Le ho parlato del compito a me assegnato soltanto per avvertirla, per richiamarla a se stesso, per rettificare i suoi concetti, che sotto l'influsso atmosferico cominciano evidentemente a confondersi. Le raccomando, abbia stima di sé, sia orgoglioso e non si dia al forestierume. Eviti questa palude, quest'isola di Circe, dove lei non è abbastanza Ulisse da dimorare impunemente. Finirà col camminare a quattro zampe. Già sta piegandosi sulle estremità anteriori. Tra poco si metterà a grugnire. Stia in guardia! Facendo le sue sommesse raccomandazioni, l'umanista aveva scosso la testa con insistenza. Tacque, con gli occhi bassi e le sopracciglia contratte. Non si poteva dargli una risposta scherzosa o evasiva, come Castorp soleva fare, e come anche ora pensò un attimo che fosse possibile. Anche lui teneva le palpebre abbassate. Poi alzò le spalle e disse con voce altrettanto sommessa: «Che dovrei fare quello che le ho detto, cioè partire». Settembrini non rispose. «Vuol dire che dovrei ritornare a casa?» «Gliel'ho consigliato fin dalla prima sera, ingegnere». «Vero, e allora ero libero di farlo, benché mi sembrasse irragionevole perdermi d'animo soltanto perché l'aria di qui mi dava fastidio. Da allora però molte cose sono cambiate. Mi sono fatto visitare. E Berens mi ha detto chiaro e tondo che non mette conto fare il viaggio, perché tanto in breve dovrei ritornare. E se continuassi così laggiù, un giorno tutto il lobo del polmone, che non è, se ne andrebbe a Patrasso». «Lo so. Adesso ha in tasca la sua tessera di riconoscimento». «Già, lei lo dice con ironia, con la giusta ironia, si intende, quella che non è mai fraintesa, ma è un retto e classico mezzo dell'arte oratoria. Come vede, non dimentico le sue parole. Ma lei è pronto ad assumersi la responsabilità di consigliarmi il ritorno a casa in base a questa fotografia? E dopo il risultato della radioscopia? Dopo la diagnosi del consigliere?» Settembrini esitò un istante. Poi si rizzò. Aprì anche gli occhi. Li rivolse neri e sicuri a Castorp. E in un tono, non privo di teatralità e di ricerca dell'effetto, rispose: «Sì, ingegnere. Me ne assumo la responsabilità». Così avvenne ciò che doveva avvenire, ciò che Castorp fino a poco prima non avrebbe mai immaginato di dover vedere. Venne l'inverno locale che Joachim conosceva già, poiché al suo arrivo il precedente era stato ancora in pieno vigore. Castorp ne aveva un po' di paura, benché sapesse di essere ottimamente attrezzato. Suo cugino cercò di tranquillarlo. «Non te lo devi figurare troppo feroce», disse. «Non proprio artico. Il freddo lo si avverte poco, perché l'aria è asciutta e non tira vento. Quando si è bene imballati si può rimanere sul balcone fino a notte inoltrata, senza gelare. È la questione del rovesciamento della temperatura al di sopra della nebbia. Nelle zone superiori fa più caldo, cosa che una volta non si sapeva. Fa freddo piuttosto quando piove, ma ormai hai il tuo sacco a pelo e quando si arriva alle strette si accendono un poco i caloriferi. D'altro canto, non fu una sopraffazione o un assalto di sorpresa. L'inverno arrivò dolcemente. Per il momento non era molto diverso da certe giornate che si erano viste già nel colmo dell'estate. Per qualche giorno il vento aveva soffiato da sud, il sole era pesante, la valle sembrava accorciata e ristretta, le quinte alpine dell'uscita parevano vicine e fiacche. Hans Castorp rimaneva fino a tarda notte sul balcone, sopra l'incantata valle invernale, molto più a lungo di Joachim, che si ritirava alle 10 o non molto più tardi. La sua eccellente sedia a sdraio col cuscino tripartito e il rullo per il collo era spinta contro il parapetto di legno, sul quale si era posato un cuscino di neve. A fianco, sul tavolinetto candido, era accesa la lampadina elettrica, accanto a una pila di libri e a un bicchiere di latte grasso, il latte della sera, che alle 9 era portato in camera a tutti gli inquilini del Berghof. Castorp gli versava un po' di cognac per renderlo più piacevole al gusto. Aveva già mobilitato tutti i ripari contro il freddo, tutta l'apparecchiatura. Fino al petto era infilato nell'abbottonabile sacco a pelo che aveva acquistato tempestivamente in un negozio del ramo e vi aveva avvolto, secondo il rito, le due coperte di cammello. Oltre a ciò portava sopra il vestito invernale una giacchetta di pelliccia, in testa un berretto di lana, ai piedi scarpe di feltro e alle mani grossi guanti foderati, insufficienti però a evitare che gli si irrigidissero le dita. Il motivo che lo tratteneva a lungo là fuori, fin verso e oltre la mezzanotte, quando la incolta coppia russa aveva lasciato da un pezzo il balcone, era certo anche il fascino della notte invernale, tanto più che fino alle 11 vi si inseriva una musica che saliva dalla valle, ora vicina, ora più lontana, ma soprattutto l'inerzia e il lavorio mentale uniti e collegati. L'inerzia, cioè, e stanchezza fisica, contraria al moto, e il vivace interessamento del suo spirito, il quale, essendosi applicato a certi studi nuovi e avvincenti, non trovava pace. Il tempo lo infiacchiva, il gelo stancava e consumava il suo organismo. Mangiava molto, sfruttava i pantagruelici pasti del Berghof, nei quali il filetto di bue era seguito dall'oca arrosto, con quell'inconsueto appetito che aveva sempre, e d'inverno, come poté notare, ancora più che d'estate. Nello stesso tempo soffriva di sonnolenza, sicché di giorno e nelle sere di luna si addormentava spesso sui libri che studiava e che descriveremo, per riprendere le sue indagini dopo qualche minuto d'incoscienza. Parlare con vivacità, e lì più che a suo tempo in pianura era portato a parlare veloce, senza riguardi, persino spericolatamente, quel discorrere vivace con Joachim durante le passeggiate di servizio nella neve lo affaticava assai. Vertigini e tremiti, un senso di stordimento ed ebbrezza lo prendevano e la testa gli scottava. Dopo la comparsa dell'inverno la sua curva era salita e Behrens aveva fatto allusione a iniezioni cui era solito ricorrere nei casi di temperatura ostinata, alle quali i due terzi degli ospiti, anche Joachim, dovevano assoggettarsi regolarmente. L'aumentata produzione di calore del suo corpo, pensò Castorp, dipendeva però certamente dall'eccitazione e operosità mentale che a sua volta lo teneva legato alla sedia a sdraio fino a tardi, nella notte gelida e scintillante.